Nel leggere la parola di Dio è esperienza comune a tutti il sentirne continuamente riecheggiare nella mente alcune parole. Non sai il perché, ma mentre mangi, mentre guidi, nei momenti più disparati della giornata certe parole occupano abusivamente la tua mente al punto che ti stupisci di te stesso. Perché certe parole non ti lasciano in pace? Cosa hanno queste parole di diverso dalle altre che hai letto? A volte perché Dio ti vuole parlare direttamente per farti evitare un errore o per consolarti o per istruirti, ma quando queste parole non producono nessun risultato, l'interrogativo rimane. Col passare degli anni ho compreso che quando brani della parola di Dio si ripresentano come un ritornello alla mente, significa che prima o poi ci è data una maggiore comprensione dei pensieri di Dio. Le parole che da anni hanno assillato la mia mente si trovano in un episodio della vita del profeta Elia. Elia il Tishbita, uno degli abitanti di Galad, disse ad Acab: «Com, è vero che vive l'Eterno, il Dio di Israele, alla cui presenza io sto, non ci sarà né rugiada né pioggia in questi anni, se non alla mia parola». Poi la parola dell'Eterno gli fu indirizzata dicendo: «Vattene da qui, volgiti verso oriente e nasconditi presso il torrente Cherit, che si trova a est del Giordano. Tu berrai al torrente e io ho comandato ai corvi che ti diano da mangiare là». Così egli partì e fece secondo la parola dell'Eterno. Andò e si stabilì presso il torrente Cherit, che si trova a est del Giordano. I corvi gli portavano pane e carne al mattino e pane e carne alla sera, e beveva al torrente. Dopo un po' di tempo il torrente si seccò, perché non veniva pioggia sul paese. Allora la parola dell'Eterno gli fu indirizzata dicendo: «Levati e va a stabilirti a Sarepta dei Sidoni, perché là ho ordinato a una vedova di provvederti da mangiare». Egli dunque si levò e andò a Sarepta. Come giunse alla porta della città, ecco lì una vedova che raccoglieva legna. Egli la chiamò e le disse: «Va a prendermi un po' di acqua in un vaso perché possa bere». Mentre essa andava a prenderla, la chiamò e disse: «Portami anche un pezzo di pane». Ella rispose: «Con, è vero che vive l'Eterno, il tuo Dio, pane non ne ho, ma solo una manciata di farina in un vaso e un po' di olio in un orcio. Ed ora sto raccogliendo due pezzi di legna, per andare a prepararla per me e per mio figlio. La mangeremo e poi moriremo». Elia le disse: «Non temere, va e fa come hai detto, ma fanne prima una piccola focaccia per me e portamela, quindi ne farai per te e per tuo figlio. Poiché così dice l'Eterno, il Dio di Israele, il vaso della farina non si esaurirà e l'orcio dell'olio non diminuirà, fino al giorno che l'Eterno manderà la pioggia sulla terra». 1 Re 17:1-14. A toccarmi in questo episodio è stato l'atteggiamento e le parole di Elia nel comandare alla vedova di cuocere una focaccia innanzitutto per lui, dopodiché la donna e il figlio avrebbero potuto mangiare. Molto strano, un comando che induce a giudicare la morale del profeta perché sembra rivelare un certo egoismo. Vuoi mangiare tu per primo? Abbi pazienza. Dopo che avrà mangiato quella povera donna, mangerai tu. Del resto non sei poi così affamato, visto che l'Eterno ha provveduto fino ad oggi per il tuo cibo. Cos, è questa richiesta di mangiare per primo appena è pronta una focaccia? I profeti sono conosciuti proprio per la loro pazienza e tu invece vuoi mangiare per primo. Va bene che sei un profeta e come tale puoi anche pretendere certe cose, ma che esempio sei con questa richiesta egoistica? Per primo, Gesù ti avrebbe condannato per la tua impazienza e mancanza di amore. La prima caratteristica dell'amore si esprime nell'essere paziente. Non è vero? Questi sono stati i miei interrogativi, i miei dubbi, in merito alla richiesta del profeta Isaia. Non solo. Mi chiedevo perché quella richiesta per me assurda del profeta mi tornasse del continuo alla mente. Forse perché la ritenevo moralmente scorretta? Non credo, perché anche se i profeti sono passibili di errori, ritenevo che in quel momento il profeta Elia dicesse una cosa giusta. Ma come poteva essere una cosa moralmente giusta la richiesta di essere servito per prima? La risposta doveva essere altrove. Infatti, solo dopo vari anni, ho capito l'apparente egoismo di Elia. Elia era un profeta dell'Eterno, il Dio del popolo di Israele, e la vedova lo aveva capito perché, quando ricevette l'ordine di andare a prendere dell'acqua, partì subito. Questo primo aspetto è già significativo, perché non credo che una donna ubbidisca all'ordine di un qualsiasi uomo. Inoltre, quando ha ricevuto l'ordine di portargli un pezzo di pane, la vedova giurò per l'Eterno dicendo che era il Dio di Elia. Elementi questi che mettono in evidenza che la vedova di Sarepta aveva compreso bene di trovarsi davanti a un profeta. In questo contesto la richiesta di Elia di essere servito per primo ha il suo senso. Infatti, se la vedova credeva che Elia fosse un profeta dell'Eterno, doveva pure mostrarlo, non solo ubbidendo alla sua parola, ma anche dando a lui la precedenza riguardo alle sue esigenze. Un profeta dell'Eterno non va solo onorato ubbidendogli, ma anche ritenendolo più importante delle proprie esigenze. Prima lui, poi te. La richiesta di Elia per associazione di idee meno mi ricorda un'affermazione di Gesù molto simile, ma molto più importante. Se uno viene a me e non odia suo padre e sua madre, moglie e figli, fratelli e sorelle e perfino la sua propria vita, non può essere mio discepolo. E chiunque non porta la sua croce e mi segue non può essere mio discepolo. LC 14.2627. Questo out-out di Gesù è decisamente più solenne delle parole di Elia. Mentre disonorare un profeta significa soltanto non attribuirgli la precedenza, nel caso di Gesù corrisponde al non essere suoi discepoli, quindi la cosa è molto più seria. Infatti, quando Gesù disse di odiare il proprio padre e la madre, la moglie e figli, fratelli e sorelle e perfino la propria vita, non ha dichiarato di dover avere una certa repulsione nei loro confronti, ma di metterli al secondo posto, il che indica di dare la precedenza a Cristo. In definitiva, Gesù Cristo ha spiegato, prima per me e poi per te, e delle necessità materiali, prima, per me e poi per te. Hai dei bisogni spirituali, prima per me e poi per te. Perché questo discorso? Apparentemente forse anche questa è una richiesta egoistica. Impossibile. Gesù non è mai stato egoista. Quando disse di amare Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta la forza e con tutta la propria anima, Gesù non stava facendo una richiesta assurda o egoistica anche nei confronti di Dio. Ma era conscio che amare Dio sopra, ad ogni cosa, in modo radicale, o mettere al secondo posto le persone e se stessi rispetto a Cristo, è la miglior difesa per non cadere in estremi e per vivere bene. Infatti la più grande trappola scaturisce proprio da ciò che noi riteniamo più importante. Quando un uomo o una donna affermano al proprio partner di essere la cosa più importante della loro vita, quando un genitore ritiene i suoi figli il bene più prezioso, quando un obiettivo e dei beni diventano la ragione della nostra vita, venendo questi, pian piano, o, improvvisamente, a mancare, sarebbe normale sentirsi la terra mancare sotto i piedi. E, allora? Scoraggiamento, disperazione meno e a volte anche suicidio meno sarebbero le reazioni più conformi alla situazione. Inoltre, agire in modo radicale nel regno di Dio è l'unico modo per dimostrare che, veramente, le nostre parole o la confessione della nostra fede sono reali. Un uomo che vuole essere fedele alla propria moglie lo dimostra, non con il tradirla solo una volta o due, ma nel non tradirla mai. Perciò, se Elia voleva essere servito primo perché la donna potesse dimostrare la sincerità della sua fede, quanto più Gesù ha il diritto di chiedere di essere primo sopra ad ogni cosa, perché noi possiamo verificare a noi stessi se la nostra fede è genuina. E se chi professa di credere in Cristo non dà a lui e al suo regno la precedenza, che conseguenze pratiche ne conseguirebbero nella sua vita? Prima di tutto si mostrerebbe un bugiardo perché, professandolo come Signore, lo rinnega poi con i fatti. Non è tanto una mia opinione quanto un'affermazione della parola di Dio. E da questo sappiamo che abbiamo creduto in Cristo se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice io ho creduto in Cristo e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è in lui. 1 GV 2.34. Inoltre, se Cristo non è prima di me e delle mie necessità primarie come il mangiare e vestire, vivo una vita misera. Gesù stesso lo ha detto. Cercate piuttosto il regno di Dio e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. LC 12.31. Chi non cerca innanzitutto il regno di Dio, anche se è ricco oltre misura, si sentirà povero, mentre chi cerca per primo il regno di Dio realizzerà che ogni cosa terrena è un sovrappiù, perché concretizzerà che le cose presenti sono passeggere mentre quelle celesti sono eterne. Dunque, il messaggio rivolto da Dio a tutta l'umanità, il Vangelo di Cristo che è proclamato in tutto il mondo, la volontà di Dio, può essere interamente riassunto in questa richiesta. Prima per me. A nulla servono gli inviti moralistici a comportarsi bene, come a nulla servono tutte quelle disquisizioni in merito alla legge di Dio. Se l'uomo sia credente, sia incredulo, ma non vive dando la precedenza al re dei re, al signore dei signori, se non vive odiando anche se stesso per onorare colui che è degno di ricevere potenza, ricchezze, sapienza, forza, onore, gloria e benedizione, ed è stato ucciso per salvare l'universo intero dalla perdizione eterna, non ha compreso la corretta risposta d'amore da dare a chi lo ha amato per primo e immeritatamente. Infatti l'apostolo Giovanni scrisse: «Noi amiamo, perché egli ci ha amati per primo». 1 GV 4.19. Ecco come comprendere la richiesta di Dio prima per me. Non è un atto legalistica il vivere dando a Cristo il primo posto, non è neppure un atto di ossequio religioso, ma la risposta derivante dall'aver afferrato l'amore di Dio. Come la vedova di Sarepta, quale risposta d'amore al profeta che la salvava da una morte certa doveva dare a lui la prima focaccia? Così molto di più il credente si trova costretto dall'amore di Cristo a offrire volontariamente ogni cosa prima a lui. Non vi è vita migliore che possa glorificare Dio. Posso compiere le più grandi imprese e esprimere i doni più eclatanti, ma se Cristo non è prima di me, ho fallito tutto. Se invece riservo la priorità assoluta a Cristo, tengo gli occhi fissi al regno futuro, nel quale Cristo Gesù servirà coloro che lo hanno atteso dandogli la precedenza. Aprile 2008. Ellero,